E allora iniziamo o continuiamo questa lunga giornata radiofonica. Abbiamo un collegamento da Milano con le compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario. Ciao. Ciao. Avete fatto questa mattina un'iniziativa sotto la Regione Lombardia, ce la vuoi raccontare? Sì, oggi appunto come un 8 marzo di lotta in continuità con quello che abbiamo sostenuto e portato avanti con lo sciopero delle donne del 25 novembre, abbiamo fatto questo presidio sotto la Regione Lombardia, perché comunque ci eravamo posti comunque dei punti che per quanto contenuti nella piattaforma per quanto riguarda la Lombardia secondo noi andavano sottolineati ed evidenziati, per il semplice motivo che ci sono delle situazioni qui in Lombardia come la trasformazione dei consultori in centri di supporto alle famiglie, che è una situazione gravissima per quanto riguarda l'autodeterminazione della maternità e la libertà di scelta da parte delle donne. Altro motivo per cui abbiamo scelto di fare il presidio nei confronti sotto la Regione Lombardia è proprio, oltre per i consultori come diciamo argomento di partenza, è proprio per protestare ed evidenziare, cioè, quello che è successo in tutti questi anni in Lombardia: attacchi ideologici, pratici contro le donne, il seppellimento dei feti abortivi, il permesso di ingresso del centro di aiuto alla vita negli ospedali, le moderne ruote degli esposti, il tentativo di ridisegnare tutta la legislazione nazionale in tema di IVG, e quindi una tradizione che ci porta indietro nel tempo, e quindi perché sono tante le cose da dire, per cui vado attimo quindi un pochino di fretta e ho paura di saltare delle cose. E il fatto della trasformazione dei consultori diventa un fatto gravissimo, perché ci impoverisce tutte e ci sono perdite di posti di lavoro, ci sono situazioni di degrado per tutta la città e per la Lombardia, e credo in unione con tutte quante le donne. E dal momento che noi in questo giorno dell'8 marzo comunque volevamo essere insieme con tutte le donne che hanno lottato nelle piazze, e in solidarietà soprattutto con le donne immigrate, che in questo disegno di legge, con questo tipo di humus, vivono soprattutto un triplice problema da tutti i punti di vista, perché poi ci sono i fondi NASCO, altro strumento ideologico sempre al servizio della centralità della famiglia, del ruolo che in essa delle donne, per di più oggi apertamente razzista verso le immigrate, perché non conta, non fa i conti con la realtà e con la precarietà, il non lavoro e il peggioramento lavorativo da parte di tutte le donne e delle immigrate a maggior ragione. Non so se sono riuscita a essere chiara su tutto, però diciamo questi erano i contenuti. Altro contenuto che avevamo individuato da tempo per quanto riguarda la regione Lombardia, era perché era partito anche un referendum sulla prostituzione, che adesso, proprio di questi giorni, esce anche il decreto legislativo della prostituzione, che è in discussione al Parlamento, dove si sono posti appunto il problema di risoluzione di questo problema, ma i punti chiave di questo decreto parla di patentino professionale, partita IVA per pagare le tasse, controlli psicofisici, la possibilità di prostituirsi in appartamenti sulla base di un permesso comunale, e questa cosa non ci trova assolutamente d'accordo, ma appunto si scrive in questo clima veramente ideologico, ipocrita. Mi vengono solo le parolacce, per cui cerco di contenermi, perché su questa situazione qui appunto non ci trovo assolutamente d'accordo, perché c'è il pericolo di una maggiore schiavizzazione delle donne, ghettizzazione, marginalizzazione per tutte coloro che finiranno in questo giro di inferno, e non si vuole mai sottolineare la libertà, la libera sessualità femminile, che non può essere certamente regolamentata da leggi. Volevo chiederti, prima di passare il telefono all'altra compagna del tuo collettivo che ci parlerà dell'opuscolo che avete fatto sullo sciopero delle donne del 25 novembre, volevo chiederti molto brevemente che striscione avevate e che slogan avete gridato. Allora, lo striscione è... allora aspetta un attimo, perché adesso ne abbiamo messi ben tre. Quello centrale, quello centrale era soprattutto allora lo slogan che abbiamo gridato, perché veramente abbiamo gridato vari tipi di slogan per questo. Quindi dalla scintilla dello sciopero delle donne al nostro 8 marzo rosso di lotta. Tutta la vita deve cambiare in meglio. Bello, bello. Va bene, senti, noi ti ringraziamo e a questo punto... Scusa l'emozione, adesso ti passo Giovanna. Ma guarda, è un piacere sentire l'emozione anche l'8 marzo. Pronto? Pronto. Pronto. Ciao Giovanna. Ciao. Senti, allora ti sento contenta comunque della giornata di oggi, diciamo che è un percorso che inizia da tanto tempo chiaramente, ma che questo ascolta, 25... non ti sento molto bene, alza un po' la voce. Questo 25 novembre, dicevo, è un percorso che vi vede attive da tanti anni. Questo 25 novembre ha avuto un momento importante perché finalmente si è riuscite a costruire lo sciopero delle donne, anche se solo in alcune città, solo in alcuni chiaramente settori lavorativi, però insomma ha iniziato ad attecchire la possibilità delle donne di iniziare a scioperare in quanto donne. Voi avete anche fatto un opuscolo, una pubblicazione che state diffondendo in questi mesi. Ce ne vuoi parlare? Sì, sì, sì, sì. Abbiamo fatto un dossier che è molto bello, cioè è un dossier molto vivo, ricco, che rende molto bene tutta la costruzione di questo storico sciopero delle donne, il primo in Italia che si realizza, ed è il primo tra l'altro a livello nazionale che ha toccato veramente tante città da nord a sud, tante realtà anche piccole. È un dossier che raccoglie in maniera molto, molto bella e combattiva, diventa uno strumento veramente di lotta che fa comprendere anche mette in luce anche tutte le difficoltà, gli ostacoli che si sono frapposti a questo alla costruzione di questa giornata. Quindi è uno strumento veramente che restituisce alle operaie, alle lavoratrici, alle donne che in maniera determinata, decisa, entusiasta hanno dato tanti diversi contributi perché riuscisse, perché si facesse questo sciopero delle donne. Quindi il necessario intreccio di classe, di lotta di classe e lotta di genere è emerso molto bene in questa occasione. È un dossier molto bello, è emozionante, coinvolgente, perché veramente si vedono tutti i passaggi che hanno reso possibile questo sciopero, e si vede molto bene anche come dire l'orgoglio, la fierezza di chi l'ha fatto concretamente lo sciopero, delle donne che l'hanno fatto, e la lotta anche portata ad esempio dalle operaie, dalle delegate della FIOM CGIL che l'hanno indetto in diverse fabbriche e posti di lavoro, anche in distinzione e lotta contro la direzione della Camusso, della CGIL, e affermano in maniera chiara in un comunicato a un certo punto questa strada dello sciopero delle donne è una via da percorrere giusta ed era giusto farlo, insomma, quindi questo fa capire come sia stata profonda, articolata anche la lotta che si è avuta in questo paese verso lo sciopero delle donne, in cui si sono affrontati tutti i problemi grandi e piccoli che le donne comunque quando sono in lotta devono affrontare, e comprese appunto le azioni di ostilità, di contrasto, però emerge molto bene ad esempio da chi è andata direttamente alle camere del lavoro per chiedere che indicessero lo sciopero o a protestare perché non fosse ancora indetto dalla CGIL nonostante la sottoscrizione di appelli e quant'altro, e quindi emergono molto bene tutti questi aspetti, anche la lotta alle posizioni sbagliate, alle posizioni che vanno contro le donne sia nel movimento del sindacalismo di base, delle organizzazioni rivoluzionarie, e invece quanto in maniera determinata e a 360 gradi le donne, le lavoratrici che hanno assunto questa importante scadenza si siano battute in tutti gli ambiti e sotto tutti gli aspetti ideologici, pratici, perché riuscisse. La cosa molto bella è che dà anche il la forza, insomma, che viene da questo sciopero, e anche i dati numerici che seppure parziali ci sono arrivati dell'adesione allo sciopero, che sono una cosa che dà la misura, insomma, di quanto possa diventare veramente dirompente la questione dello sciopero delle donne in questo paese. Solo nella scuola, che sono i dati ufficiali che sono arrivati, si parla di oltre 12.000 adesioni, no? E quindi anche i numeri rendono molto bene. Poi anche tutte le notizie che fra il 18 e 19 ottobre, quando ci sono state le due assemblee a Roma che hanno lanciato fortemente la necessità che fosse uno sciopero vero, reale, di 24 ore, che veramente dicesse che provate voi a stare un giorno senza le donne, e le notizie che arrivavano anche dai paesi più remoti, dalle realtà più lontane, via via hanno dato proprio il senso della crescita e della realtà concreta che si stava realizzando, insomma, e quindi è stato anche una costruzione collettiva, perché tanti piccoli e grandi problemi che anche donne che in realtà isolate incontravano per poter fare la loro parte, comunque sono state tutte affrontate, tutte hanno trovato sostegno, solidarietà e idee per poter essere concretamente e poterlo fare. Quindi è un dossier molto importante, molto bello ed entusiasmante, perché restituisce il senso che abbiamo provato tutte quel giorno. Alla fine ci siamo dette, siamo orgogliose, siamo fiere, no? Le prime cose che ad esempio a Milano alla fine del presidio abbiamo espresso è stato proprio questo senso di orgoglio, di fierezza, di di forza, ecco, di forza anche che abbiamo trovato collettiva. E diciamo. Quindi è anche uno strumento, diciamo, di lotta per anche continuare e costruire, quindi un prossimo 25 novembre per il 2014, di nuovo con lo sciopero delle donne, immagino, anche con la possibilità appunto di continuare di allargare la lotta, l'idea, certo, le nostre certo, lotte. Certo. Allora, dove, come si può avere, come si può trovare? Avete un contatto magari web? Sì, sì, sì, anche sul blog abbiamo messo la possibilità di richiederlo come, direttamente. Come è l'indirizzo del blog? Scusami, che http / femminismorivoluzionario.blogspot.it oppure si può scrivere a mfpa@libero.it. Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo. Noi continuiamo questa nostra trasmissione, siamo ora in collegamento con la Piazza Romana e quindi grazie mille, a presto. Grazie. Ciao. A voi e buon 8 marzo di lotta. A tutte.